Rassegna Stampa Europa. Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa europea di Radio 24. Buon sabato a tutti. E come sempre abbiamo i grandi temi che sono quelli della Grecia, del piano di salvataggio. Ne abbiamo parlato tanto, non siamo arrivati a una decisione finale, quindi lo accenneremo più tardi. Però c'è un tema che è stato un po' oscurato, forse anche dalle tante notizie che ci sono in questi giorni, dai risultati delle elezioni in Gran Bretagna, ma che purtroppo, non perché non se ne parli più, in realtà è un tema che di cui non si dovrebbe parlare. Naturalmente mi riferisco all'immigrazione, e come avevamo fatto la settimana scorsa, cito un paio di articoli, uno in particolare del New York Times, che parte in realtà da una vignetta fatta da un vignettista spagnolo, dove si vede una spiaggia con un lifeguard, cioè un bagnino, si vede l'ombrello è quello della bandiera dell'Unione Europea, quindi la bandiera azzurra con tutte le nostre stelle, questo bagnino che in realtà non è vestito da bagnino, ma è vestito di tutto punto, con giacca e cravatta, un megafono in mano, e dice go back a questo barcone di disperati, perché si vede appunto un barcone strapieno con alcune persone che si lanciano in mare. Questa è naturalmente l'interpretazione un po' di quello che sta succedendo sulle nostre coste, lo sappiamo bene, tant'è che il New York Times appunto titola la vignetta "Tornate a casa", e parla dell'ultimissimo fatto di cronaca. Ma come dicevo, purtroppo la cronaca esiste, solo che a volte noi non ne teniamo conto, noi giornalisti, noi media in generale. Oltre 5.800 migranti che tentavano di raggiungere l'Europa a bordo di gommoni e barche di legno sono stati soccorsi, l'avvenimento si riferisce ai primi giorni di maggio, e altri 10 sono annegati nel canale di Sicilia. Questa è sicuramente una operazione di salvataggio, una delle più grandi in cui è stata impegnata la Guardia Costiera italiana, tant'è che appunto si è limitato il numero dei morti. Per la prima volta il Phoenix, una nave noleggiata dalla ONG Migrant Offshore Aid Station e da Medici Senza Frontiere, e la fregata francese Biro hanno preso parte all'operazione di salvataggio, che hanno coinvolto 12 navi in tutto. Quindi forse c'è concretamente, questo anche il senso del pezzo del New York Times, un cambiamento, perché sapete che queste operazioni di salvataggio in realtà non erano più la priorità con il nuovo sistema Triton che ha preso il posto di Mare Nostrum. Passiamo a un'altra nazione, qui come sempre mi viene in aiuto PressEurope.eu, questo sito che monitora, fa un po' al nostro stesso scopo, monitorare le notizie che riguardano l'Unione Europea, ma che vengono da tutti i paesi dell'Unione Europea, e in questo caso viene da un giornale della Moldavia che si chiama Ziarul Național, e ci racconta di un altro avvenimento fuori dai radar così più generali delle notizie, che sono le manifestazioni contro la corruzione. C'è molta corruzione in Moldavia, forse non se ne sa nemmeno tanto, si pensa forse che sia tutto sommato meno appunto corrotta di quello che si crede, che siano tutto sommato la Grecia stessa, per esempio, per tornare alla Grecia, uno dei paesi dove la corruzione e le tangenti sono molto diffuse, purtroppo è così anche in Moldavia. E allora questo giornale ci racconta che il 3 maggio 40.000 persone, secondo gli organizzatori, poi c'è sempre la solita discrepanza con le stime invece delle forze dell'ordine, che dicono fossero 10.000, comunque un buon numero, sono scesi in piazza a Chisinau per manifestare contro la corruzione che regna in Moldavia. I partecipanti a quello che Ziarul Național, questo giornale, definisce il Maidan Moldavo, chiedevano al governo di chiarire le circostanze della scomparsa, pensate, di $1 miliardo, che in euro sono circa 830-840 milioni, detenuto dalle tre principali banche del paese, BEM, Banca Sociale e Unibanca. L'ammanco era stato rivelato da un rapporto pubblicato da una società indipendente britannica al termine di una verifica compiuta su richiesta alla Banca Centrale Moldava. Tra l'altro c'è un vertice che arriverà presto sul partenariato orientale, che appunto è il focus sui paesi dell'Unione Europea della parte orientale, e la Moldavia dovrebbe essere lì, dovrebbe vedersi se appunto c'è una conferma del percorso verso l'Unione Europea, perché l'accordo per l'associazione risale al giugno scorso, ma questo scandalo sicuramente non aiuterà, anche se poi naturalmente potremmo dire chi è senza corruzione scagli la prima pietra, ma è un altro discorso. Vi segnalo ogni tanto quando riesco, quando anche Press Europe lo fa e quindi io mi appoggio a loro, queste mappe, che sono delle vere e proprie mappe più che delle infografiche. Questa per esempio è sul sito di Beautiful Maps, parte da dati di Wikipedia e mostra tutti i paesi che hanno ufficialmente riconosciuto il genocidio armeno, che sapete è una questione che ha visto il Papa Francesco contrapposto al premier Erdogan turco, che continua a negare il genocidio, e però fa vedere che in Europa, questa mappa fa vedere che in Europa la maggior parte dei paesi hanno riconosciuto il genocidio armeno, di cui tra l'altro si è appena commemorato il centenario. Fanno eccezione, vi dico, in Europa: Albania, Bielorussia, Danimarca, pensate, Finlandia, Irlanda, Islanda, Lussemburgo, Norvegia, Portogallo, Regno Unito, Romania e tutti i paesi della ex Jugoslavia. E poi vi cito, perché insomma ogni tanto fa piacere, questa rassegna è una rassegna dei giornali europei, noi siamo italiani quindi europei, viene un articolo che è apparso sulla Repubblica, che tra l'altro è frutto di un impegno con l'organizzazione di giornalisti indipendenti, vi dico anche proprio come si chiama, del Fondo Europeo per il Giornalismo Investigativo, e anche frutto della collaborazione con la piattaforma di giornalismo partecipativo Mobile Reporter, e si focalizza sulle regole in materia ambientale e sul ruolo che le lobby hanno avuto nell'imporre certe regole. Vi ricorderete forse che settimana scorsa abbiamo citato un articolo, un'inchiesta sul potere delle lobby. A volte si pensa che siano una cosa soltanto americana, in realtà anche in Europa cominciano a essere molto potenti. E allora riassume Repubblica: le regole europee in materia ambientale, che naturalmente sono temi e questioni che ci riguardano tutti personalmente, perché a volte abbiamo dei nemici o degli amici invisibili nell'ambiente che possono modificare la nostra salute. Ecco, queste regole in materia ambientale sono in gran parte dettate dalle stesse industrie, che dovrebbero regolamentare nell'interesse dei cittadini, come illustra questa inchiesta realizzata da Repubblica. La trovate appunto sul sito di Repubblica. Per certi versi inquietante, forse dovremmo tutti, è uno dei temi di cui forse dovremmo fare come gli americani, che scrivono ai loro rappresentanti in congresso. Noi dovremmo scrivere alle persone che abbiamo mandato in Europa, ai parlamentari europei, e sottolineare che se c'è un tema dove gli interessi non devono essere principali, non devono essere quelli dell'industria ma della salute, è proprio il tema ambientale. Passiamo a un altro argomento, perché di Grecia non possiamo non occuparci. E allora la Süddeutsche Zeitung ha pubblicato una sorta di rettifica. Ricorderete, forse ne abbiamo parlato tanto, a un certo punto il premier Tsipras e il suo ministro delle finanze Varoufakis avevano detto che la Germania, sostanzialmente, riassumo un po' grossolanamente, la Germania doveva stare zitta perché aveva ancora dei danni di guerra da pagare alla Grecia, e le prime reazioni della Germania erano: ma state scherzando, cioè quella questione è chiusa da tantissimo tempo, dagli anni 60. Poi però il presidente della Germania Joachim Gauck aveva detto: ma forse però possiamo riparlarne. Ecco, adesso c'è stata una smentita ufficiale, si è detto che il presidente della Repubblica Federale Tedesca, cioè della Germania, è stato frainteso e che il governo ritiene conclusa la questione. Lo ha detto di nuovo quello viene considerato il falco del governo Merkel, cioè Wolfgang Schäuble, il ministro delle finanze, in un'intervista appunto alla Süddeutsche Zeitung. Restiamo un attimo sulla Süddeutsche Zeitung, perché un'altra questione di questa settimana è quella un po' dello scontro tra la Germania, i servizi di intelligence tedeschi, e la National Security Agency, che è uno dei servizi di intelligence americani. La notizia che dà la Süddeutsche Zeitung è che adesso i servizi di intelligence tedeschi hanno ridotto la loro collaborazione con la NSA dopo le rivelazioni sullo scandalo spionaggio nei confronti dei responsabili europei per conto di Washington. In particolare, Washington pare molto interessata a quello che facevano i funzionari tedeschi. E naturalmente una delle prime dichiarazioni di Angela Merkel, forse la ricorderete, è: tra amici non ci si spia. In realtà o non si è amici, o forse ci si spia anche tra amici, se appunto per amici intendiamo la Germania come forte alleato degli Stati Uniti in America e gli Stati Uniti. Un ultimissimo accenno alla Grecia, anche se poi purtroppo sappiamo, siamo tutti in attesa che finalmente si firmi un accordo, ma tra scadenze, tranche dei debiti da restituire, eccetera, è sempre più difficile. Secondo Le Monde, in questi giorni c'è stato un progresso nelle discussioni, però. E tenete a mente questa data che è l'11 maggio, che poi è dopodomani, vediamo appunto, secondo il presidente dell'Eurogruppo, lunedì si dovrebbe, che l'olandese Dijsselbloem, che ha dato questa intervista a Le Monde, dovrebbe esserci veramente una svolta. Mi sembra un po', per chi segue Alessandro Milan al mattino con le sue settimane decisive per l'abolizione della provincia, la storia greca sta diventando un po' così. Un'ultimissima cosa velocissima, Financial Times, Il Paese e tanti altri giornali hanno salutato positivamente, forse più positivamente di quanto è accaduto qui da noi, l'approvazione dell'Italicum, di questa riforma elettorale, perché viene visto, come tutte le leggi ha dei difetti, ma viene visto veramente come finalmente un segnale di forte riforma da parte dell'Italia. Era l'ultima segnalazione che riesco a farvi per questa settimana. Ancora un buon sabato da Giulia Crivelli. Rassegna Stampa Europa, in collaborazione con Euronet Plus.